want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, want to want. Two, two, two, hey, hey. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica di Gege Telespro. Buon pomeriggio da Gioge Telesforo, siete in contatto con Radio 24 per il soundcheck, la prova del suono che oggi ha come tema portante l'immagine degli artisti. Quanto è importante avere un'immagine, quanto è importante il ruolo del fotografo che recupera momenti di vita vissuta quando si trova sotto un palcoscenico e cerca di immortalare e di far sentire attraverso i suoi scatti il suono di quel concerto, il suono di quell'artista, oppure deve aiutare anche con dei trucchetti quasi da chirurgo plastico sul computer uno scatto perfetto ma non impeccabile, soprattutto perché magari la pelle di un artista oggi non più giovanissima ha bisogno di qualche ritocco, e ne parliamo con uno dei più grandi fotografi di musica al mondo, il formidabile e poi un mio carissimo amico Luciano Viti. Buon pomeriggio e benvenuto al Soundcheck, Luciano. Buon pomeriggio a te, grazie di avermi invitato. Allora, tu hai scattato fotografie a destra e a sinistra, ormai fai questo lavoro da quanti anni? 35-40 anni? Sì, su per giù è quella l'età, è una quarantina d'anni, sai, sì. Quarantina d'anni dietro all'obiettivo e sempre sul campo, ecco, un po' come un fotografo, un reporter di guerra, solo che te fai un lavoro più piacevole, senz'altro, e meno pericoloso. Assolutamente sì, sì, certo, è un grande piacere per me stare sotto al palco oppure in studio con gli artisti. Non sempre il fotografo viene accreditato ai concerti, a meno che non sia il fotografo di tournée importanti. Tu per esempio per anni sei stato il fotografo ufficiale delle tournée di Pino Daniele, ma hai fotografato alcuni fra gli artisti più importanti di sempre, a partire, che ne so, dai Bee Gees a B.B. King, George Benson, Frank Zappa, il nostro grandissimo Ennio Morricone, Talking Heads, Jeff Beck, Neil Young, Pino Daniele, Claudio Baglioni, Eric Clapton, ma un mare di musicisti, anche tantissimi musicisti di jazz, tante fotografie di rockettari che tra l'altro vengono riportate anche in un libro del quale parleremo fra pochissimo. La cosa interessante per me è un po' il doppio metodo, no? La visione diversa che un fotografo deve avere quando scatta una fotografia live e quando invece scatta una fotografia per un artista da proporre magari su una copertina di un giornale di un disco. Quali sono i meccanismi? Guarda, i meccanismi sono due, differenti, e mi trovo a mio agio in ambedue le situazioni. Diciamo, nel concerto devi avere, diciamo, la tecnica del cecchino, devi essere pronto, scaltro, nervi ben tesi e non farti sfuggire l'attimo che improvvisamente l'artista fa, perché non è nulla di preparato, tu devi stare lì con la macchina fotografica a mirare e stare pronto a catturare proprio l'attimo in cui l'artista fa quel gesto che tu ritieni quello che lo simboleggia meglio di tutti. Mentre in studio è una tecnica completamente differente, sei tu che fai le luci, fai il set e gestisci insieme all'artista il risultato finale, per cui c'è una grande collaborazione più in studio che in concerto, diciamo. Allora, dammi un voto a questa copertina che ritrae Diane Reeves nella ultima pubblicazione intitolata Beautiful Life, che adesso ascoltiamo. Un voto da 1 a 10. Mi piace molto, ricorda molto il Flower Power alla Janis Joplin degli anni 60. Io tranquillamente un 8,5-9 glielo do tranquillamente, perché è veramente briosa, viva, ricca di colori, e forse rispetta proprio il suo stato d'animo e il suo essere. Ma soprattutto il sound che propone in questo nuovo album. Il brano si intitola 32 Flavors e lei è Diane Reeves al soundcheck di Radio 24. Squint your eyes and look a bit closer. I'm not between you and your ambition. I am a poster girl with no poster. And I am 32 flavors and thin some. And I am beyond your peripheral vision. So you might wanna turn your head. Because one day you're gonna get hungry. My pain. so you might wanna turn your head, because one day you're gonna get hungry and eat all the words you just said. Well, God help you if you are a big girl, of course too skinny is also your doom. For the skinniest girl in the room, and God help you if you are famous and you dare to rise from the ash. A thousand eyes will smolder with jealousy while you are just flying back. So what I say is, put your eyes and look a bit closer. I'm not between you and your ambition. I am a poster girl with no poster, and I am 32 flavors and voce, il nuovo suono di Diane Reeves al soundcheck di Radio 24, che torna con il nuovo album intitolato Beautiful Life. Il brano era 32 Flavors e oggi parliamo di quanto è importante l'immagine di un artista per diffondere, per comunicare anche la sua musica. Ne parliamo con Luciano Viti, eccellente fotografo ormai di fama internazionale, nostro ospite qui al soundcheck, qui su Radio 24. Sound check. Check, check, one, two. Il suono della musica. Só dança samba, só dança samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Só dança samba, só dança samba. Vai. Já dancei o twist até demais. Mas não sei, me cansei do calypso, já, já, já. Só dança samba, só dança samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Só dança samba, só dança samba. Il freddo è arrivato prepotentemente in Italia ormai da qualche giorno e noi vogliamo scaldarci con il Brasile, proposto qui da Eliane Elias, eccellente pianista, cantante, ormai una veterana del genere ma anche del jazz, in So Danzo Samba, celebre composizione scritta da Antonio Carlos Jobim nel periodo vero della bossa nova lì a Rio de Janeiro. Eliane Elias ha, oltre al grande talento musicale che esprime ormai da anni, avendo suonato con al alcuni fra i protagonisti della scena jazz ormai da 30 anni a questa parte. Ha fatto parte degli Steps Ahead suonando con Michael Brecker, è stata la moglie di Randy Brecker, oggi è sposata con Mark Johnson, altro celebre contrabbassista del jazz. Appare nella copertina dei suoi album sempre molto elegante, molto ben curata. E visto che oggi parliamo di immagine, quanto è importante l'immagine degli artisti, quanto è importante il ruolo del fotografo, vorrei chiedere al nostro ospite Luciano Viti, fotografo di musica di fama internazionale, cosa ne pensa di Elian Elias. Mi sa che non è difficile fotografare una donna così. No, non è difficile assolutamente, vedo che è una persona, si vede proprio dall'immagine di questa copertina, una persona a cui piace farsi fotografare. Beh, non dimentichiamo che è brasiliana, eh? Sì, sì, però diciamo che questa foto, che è una foto scattata a colori, però potrebbe essere tranquillamente un bianco e nero colorato, perché di colore non c'è nulla. Lei si mostra proprio come un personaggio anni 30, guanti lunghi, struzzo, abito da sera, e si vede che ha una, come vogliamo dire, una discendenza musicale molto legata agli anni 30-40. Ecco, questa descrizione è stata importante perché praticamente il fotografo, quando ritrae un artista, deve far venire fuori tutti questi aspetti e forse anche qualcosa di più. Per il pop di solito l'immagine deve essere molto curata, molte volte vengono usati grandi studi, grandi mezzi e anche grandi ritocchi fotografici, quasi proprio un'operazione di bisturi da chirurgo plastico più che da fotografo. E invece, quindi, qual è la differenza? Invece musicista di jazz, un musicista di musica classica, che oggi appaiono nelle copertine dei dischi come le pop star, invece che cosa deve venire fuori, cosa devi cogliere da quegli artisti? Guarda, io cerco sempre di tirare fuori, parlo per me, l'anima, qualcosa che traduca in visione quello che è il loro aspetto musicale. Ci deve essere questa connessione, non deve essere una cosa gratuita per me fare le foto, deve essere sempre una cosa attinente musica, immagine. E però ecco, ritornando al discorso che facevi tu, c'è molta differenza tra le copertine di dischi anni 50, 60, 70 e adesso. Anche beh, anche nello scatto, nell'immagine, si fotografava in pellicola che ha tutta un'altra porosità, un altro spessore. Oggi è tutto in digitale, anche con l'iPhone o il telefonino puoi fare le fotografie. Sì, beh, sembra facile come lo dici tu, però guarda, io posso dirti che ancora fotografo a pellicola, mi prenderanno tutti per matto, ma io fotografo ancora in pellicola, specialmente uso molto la 6x6, diciamo, la pellicola 6x6. Sei rimasto vintage, sei rimasto il ragazzo di un tempo, ma che cos'è il rapporto proprio con anche con la carta, te le stampi tu le fotografie? No, guarda, ho un laboratorio di fiducia in cui stampiamo insieme le foto in bianco e nero, diciamo, più che altro perché uso molto il bianco e nero. E secondo me, mio modesto parere, la pellicola, specialmente per le stampe in bianco e nero, è ancora superiore al digitale. Per le stampe ai sali d'argento, diciamo la vecchia carta fotografica, è ancora al di sopra del digitale. Allora, prima di riprendere il discorso sull'immagine e la fotografia, e poi vorrei anche parlare di questo rock in camera, che non significa che non parliamo della cameretta da letto di Luciano Viti, ma della sua macchina fotografica, ne parliamo fra pochissimo, dopo aver ascoltato questa nuovissima pubblicazione con protagonista il sassofonista Craig Handy, che non è famosissimo nel nostro paese, ma è un musicista sanguigno e verace che dedica questa nuova pubblicazione a due passioni che ha nella musica: l'organista Jimmy Smith e il ritmo di second line tipico di New Orleans. Quindi questo è il concept base di questo album, infatti intitolato Craig Handy and Second Line Smith. Il brano si intitola Minor Chant, restiamo qui con una ritmica anche vagamente brasiliana, un po' New Orleans, un po' no, qui al soundcheck di Radio 24. Thank you. Sound Check. Check, check, one, two. Il suono della musica. Il fotografo Luciano Viti, fotografo di musica, è nostro ospite qui al Soundcheck di Radio 24. Stiamo parlando dell'immagine degli artisti attraverso le copertine, attraverso le fotografie che poi i vari uffici stampa diffondono in giro per il mondo per comunicare l'arrivo della nuova tournée o la pubblicazione del nuovo disco. E comunque molti artisti si fidano solo di alcuni fotografi. Quali sono gli artisti che hanno sempre richiesto il tuo scatto? Diciamo in linea di massima in Italia Pino Daniele, come sai abbiamo collaborato negli ultimi 30 anni e credo di aver fatto una decina di copertine con Pino. Tu hai collaborato con alcune fra le riviste, le testate più importanti, dal Time, The Guardian, New York Times, Mojo e poi anche riviste italiane, Panorama, L'Espresso, L'Europeo, Amica, Sette, Specchio, Epoca, Rolling Stones, tutte le riviste musicali, Playboy. Chi ha Playboy? Chi hai fotografato a Playboy? Un musicista o qualche fotomodella? No, perché è interessante, lo dico da musicista proprio. No, no, è un servizio sui Genesis, su Phil Collins e Company. In mutande? No. No, pensa, è stato fatto nel backstage di una trasmissione Rai del sabato sera, quelle condotte da Pippo Baudon, dove i Genesis praticamente suonavano in un hangar dell'aeroporto di Fiumicino con tanto di allestimento vero di aeroplano Alitalia di linea, per cui non c'è nulla di sexy in questa photo session. E comunque è vita vissuta e quelle fotografie sono rimaste nella storia del rock anche. E molte fotografie, molti scatti ripresi dal nostro Luciano Viti li ritroverete in questa nuovissima pubblicazione che si intitola Rock in Camera, scatti di un fotografo in blues. E ci sono scatti di tutti i tipi, fatti dal vivo, durante i concerti. Addirittura questa è bellissima perché sono proprio i provini originali, poi con la X che indica lo scatto scelto magari dall'artista. Per esempio qui vedo Ray Charles, ma c'è una fotografia che veramente ha fatto il giro del mondo, è stata utilizzata tantissimo, che è uno scatto bellissimo di Miles Davis al quale tu chiedesti di mettere il dito indice o il mignolo, che cos'era? L'indice sulla punta della lingua. E troverete tutto questo con aneddoti e vari racconti in Rock in Camera. Intanto noi andiamo alla musica e ti faccio ascoltare questa giovane interprete americana che sicuramente non conosci, ma oggi è ormai una star del jazz. Si chiama Gretchen Parlato, da Lost and Found. Il brano è All That I Can Say, molto semplice ma molto carino, con Kendrick Scott alla batteria, Derrick Hodge al contrabbasso e il bravissimo Taylor Exty al pianoforte. Gretchen Parlato al sound check. Loving you is wonderful, something like a miracle. Rest assured, I feel the same way you do. Meeting you isn't hard, with you I can let down my guard. Stay secure, that's all I'm asking you. Wish that I had words to tell, feeling that I know so well, but I don't. Sì, siamo ai saluti, stiamo per salutare il fotografo Luciano Viti, nostro ospite, per parlare di immagine, musica, fotografia e dopo Gretchen Parlato, quindi io ti ringrazio per la partecipazione, però vorrei che tu mi raccontassi come hai fatto a chiedere a Miles Davis di mettere il dito indice sulla lingua per questo scatto immortale. Guarda, ho fatto ho fatto? Non ho fatto nulla. Ho capito che poteva essere uno scatto interessante questo binomio lingua, tromba e indice, però la tromba non c'era e ho fatto solo lingua e indice. Era alla fine della photo session, alle 2 di notte, all'Hotel Sheraton di Roma, e ho tentato un tutto per tutto. Lui mi ha guardato mi ha guardato stupefatto, mi ha detto: ma questo adesso che me sta a chiedere? E io gli ho fatto: senti, per favore, a Miles, proprio così in romano, no, l'ho detto in inglese. E lui mi ha guardato e poi ha preso e ha messo questo dito, ha tirato fuori la lingua e ha messo il dito indice sulla punta della lingua. Io ho scattato e con l'ultimo scatto che avevo a disposizione gli ho fatto one more, e per cui la photo session è finita così. Ultimo scatto, perché parliamo di fotografia in pellicola, e quindi avevi l'ultimo scatto a disposizione, meraviglioso, per Luciano Viti. Grazie Luciano, e allora vi lascio proprio con Miles Davis, con il suo capolavoro The Kind of Blue. Il brano è proprio quello di apertura di questa produzione immortale che ha cambiato il suono nel jazz, e ancora oggi quando si riascolta Miles Davis con John Coltrane al tenore, Julian Conobal Adderley al contralto, Bill Evans al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso, Jimmy Cobb alla batteria, beh, vengono i brividi. Miles Davis chiude il soundcheck di Radio 24. Grazie a Luciano Viti, a tutti voi buona giornata e buona musica. Soundcheck. Il suono della musica.